centrale. Un corteo oggi a Napoli della comunità di Acerra, dei cittadini di Acerra e dei movimenti di Acerra insieme con il movimento napoletano, ancora contro l'inceneritore, la costruzione dell'inceneritore individuato in località Pantano dalla regione Campania, dal Ministero dell'Ambiente e dal Commissario straordinario dei rifiuti Catenacci. Una manifestazione di diverse migliaia di persone, siamo ora sul Corso Umberto nel centro di Napoli, circa 6.000 le persone in questo momento in corteo che si stanno dirigendo verso la prefettura, dove una delegazione della comunità di Acerra e dei movimenti verrà ricevuta poi dal prefetto, per poi spostarsi alle ore 15 sotto la sede del Consiglio regionale della Campania, dove appunto alle 15 è convocato un consiglio regionale monotematico sulla questione rifiuti, dove di certo sentiremo per l'ennesima volta il presidente Bassolino e la maggior parte delle forze della maggioranza di centro-sinistra ribadire con forza che l'inceneritore va fatto. Questa è una manifestazione anche contro la difesa dei poteri forti che si è avuta in queste settimane qui a Napoli e ad Acerra, una città, quella di Acerra, militarizzata con la presenza di 1200 tra polizia, carabinieri e finanzieri, svariati posti di blocco in tutta la città e in un certo qual modo una repressione che va a difendere quelli che sono gli interessi della FIB, quelli che sono gli interessi del governo Berlusconi, ma a questo punto anche della regione Campania, che si ostina a parlare solo di una presunta necessità di un dialogo democratico con le popolazioni di Acerra, ribadendo però poi la volontà di costruire l'inceneritore nella località della provincia di Napoli. Insomma, come dire, è come se volessero incenerire i rifiuti democraticamente.